e mi ha dato un premio. In giugno, in occasione del trentennale della legge Basaglia, mi ha dato un premio a me e a due professori dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Un premio importante a Roma, Campidoglio. A me, piccola formichina, un premio. No, mi fa piacere ovviamente. Anche se di premi mi ne ricevo tanti, da tanti anni col mio lavoro, quando sono con i miei utenti, tutti i giorni, ogni giorno ricevo premi. A fare sto lavoro ho iniziato tanti anni fa, perché avevo lasciato mio marito e avevo bisogno di una sicurezza economica per mantenere mio figlio. Allora mi hanno detto di andare alla provincia, perché l'ospedale psichiatrico di Trieste era sotto la provincia. E era l'obbligo della provincia dargli una risposta alle persone divorziate, separate, ai profughi, agli orfani di guerra, alle ragazze madri, e a chi non lavorava, insomma. E mi hanno detto se volevo andare a fare l'infermiera psichiatrica. Ho fatto la domanda e mi hanno assunta subito. E sono venuta a lavorare qua, al psichiatrico, come infermiera, giornaliera, perché all'inizio non ero di ruolo. Giornaliera significava sostituire le infermiere di ruolo che erano in malattia, così se potevo lavorare 3 giorni che l'infermiera stava in malattia e bisognava stare a casa 15 giorni prima di essere richiamati. Per me, appena entrata, e era un lavoro come un altro, questo mi vergogno oggi di dire. Dopo mi sono vergognata, con la consapevolezza che ho acquisito mi sono vergognata, che non capivo. Per me era normale quel sistema. E così ho cominciato a lavorare come infermiera nel manicomio. Nel gennaio del 68. Ho fatto solo 3 anni della vecchia gestione, prima de Basaglia, dal 68 al 71. 3 anni sufficienti però, sufficienti per vedere, sufficienti però per capire. Dopo. Perché prima, in quel momento là, prima dell'arrivo de Basaglia, mi non capivo niente. Per fare gli infermieri bastava la terza elementare. Prendevano le persone robuste come infermieri, in grado di difendersi, di aggredire i matti, praticamente. Gli infermieri dovevano essere bravi a menare le mani, sa? Ma non erano infermieri. Gli infermieri erano secondini e pulitori. Secondini e pulitori. Noi facevamo le pulizie controllando che le donne stessero tranquille e buone. Un episodio che mi ricordo perché c'è stato un forte trauma per me. Una volta una del reparto O si era rivoltata contro di me e mi aveva aggredito. E io ho cominciato a gridare, no? E dal piano di sopra sono arrivati 3 infermieri. 2 l'hanno bloccata e il terzo ha cominciato a sferrarle delle ginocchiate, dei calci sui fianchi tremendi, che io ho gridato, ma no, la sela non si fa così. Bastava che la tenessero, no? Che ci separassero. E allora questi infermieri, buon picciati, sa cosa che ti fa? La prossima volta ti serangi da sola. Questo era il modo di lavorare da infermieri prima di Basaglia. E era 151 donne qua dentro, in questo camerone dove che siamo adesso, che oggi c'è la sartoria. 151 sedute sulle panche dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera. Avevamo una catena attorno alla vita con 2 chiavi, una chiave per la finestra e una per il passepartout delle porte. Una catena, sa, tipo quella del water che si tira l'acqua. E le infermiere, che erano di turno, solo donne, dovevano pulire i vetri, i pavimenti, i muri, tutto, dovevano pulire tutto. Pulizia e custodia. Tutto. tutto il giorno. Anche se poi c'era comunque l'odore di piscio, perché i vestiti impregnati delle donne che se la facevano addosso li lasciavano su dei lunghi attaccapanni e là c'era sempre questo odor terribile, l'odor del manicomio proprio. Però pavimenti e vetri, quelli dovevano essere sempre trasparenti, pulitissimi, tirati a lucido. La metà di quelle che erano chiuse qua in questo padiglione facevano i propri bisogni in tre comodoni. Una sedia con dentro in un buco un vaso di alluminio. 151 con soli tre comodoni che ogni fine turno dovevano pulire a mani nude, lucido come uno specchio, proprio. Ci tenevano tanto all'igiene, però noi infermiere ci facevano lavare questi comodoni a mani nude, che dopo abbiamo scoperto che erano sifilitiche, tubercolose. Pensate, perché non potevano andare in bagno normale, no, non le andavano in gabinetto da sole. Tutto il giorno dovevamo pulire, anche se era tutto pulito. Ecco la divisa, la nostra divisa era una vestaglia a rigatino a righe bianche e azzurre, con una cuffia bianca, cioè, e un grembiule bianco. La divisa delle internate era invece d'estate a quadretti, tutto uguale, no? Quadretti di blu scuro, e d'inverno flanella a fiori, tutte uguali. Non si poteva andare noi infermiere nel reparto uomini? No, assolutamente no. Mi non conoscevo i colleghi infermieri. Li conoscevo di vista, sì, passando fuori per strada, ma no qua dentro. Fra di noi infermiere c'era un rapporto bellissimo. Ci facevamo i nostri pranzetti, le nostre cenette, a seconda del turno, no, che avevamo. E era un gruppo molto affiatato. E l'ospedale psichiatrico sta sul Colle de San Giovanni. E c'era questo viale, no? Che divideva in due l'ospedale. Da una parte gli uomini, come che te vien su sulla destra, e dall'altra le donne a sinistra. Perciò donne con donne, uomini con uomini. E il reparto degli uomini sarà stato sicuramente più violento, no? Perché loro non pulivano come in quelli femminili, no? Facevano pulire ai matti. Non obbligavano agli infermieri uomini di fare pulizie, no? E quando siamo andati per la prima volta dopo l'arrivo de Basaglia e abbiamo visto che era tutto sporco, lercio, beh, anche questa è una cultura maschilista, eh? E noi non potevamo andare noi infermiere, no? Del reparto uomini lì, prima, a fare le pulizie. Il turno era quello e quello bisognava fare, sì, senza poter comunicare o telefonare con l'esterno. A me m'era morto mio papà, facevo il turno de notte e non l'ho saputo che la mattina dopo, alle 6 del mattina, quando è venuta la caposala che mi ha detto putera lavadi a casa che si è morto suo papà. E anche una telefonata, niente, era una reclusione anche per noi. E quando bisognava fare il turno de notte c'era un orologio con una carta, era un rullo, no? Che ruotava lentamente, che aveva una fessura, e su questa fessura ogni mezza ora dovevo fare in tempo a firmare, che se saltavo 5 minuti l'orologio andava avanti e il giorno dopo te che te ero a rapporto. In quel periodo ero incinta e l'ispettrice, che mi voleva tanto bene, sì, non mi sopportava. Perché io non ero, sa, di quelle rufiane che guardava il radicchietto, il dolcetto, il regaletto, no, perché era tutto un clientelismo, compreso con le capò, che erano malate internate, no, che raccontavano tutto quello che facevano le infermiere e anche le malate. Insomma, noi avevamo un controllo sia da parte della caposala sia da queste capò. Le infermiere anziane poi erano tremende, brutte, cattive, cattive con tutti, con le colleghe e con gli internati. Mi è capitato anche di vedere qua, proprio in questo reparto che siamo adesso, un'infermiera tremenda e un'internata, Ada si chiamava, che l'aveva risposto a tono, e questa infermiera l'ha presa per i capelli e l'ha trascinata per tutto il corridoio, che era abbastanza lungo, fino in fondo, e io non capivo perché faceva questo. Perché lei era cattiva. Dopo ho capito perché non assumevano donne sposate, ma solo zitelle. Tantissime zitelle, acide, infelici in famiglia. Ed essendo infelici in famiglia, dov'è che scarichi la violenza, visto che in famiglia non puoi farlo? Col debole, con chi era internato qua. Ma il responsabile però sicuramente era il sistema, no? Una caposala non può permettere che un'infermiera bastoni una malata. E invece permetteva di tutto e di più. Quest'Ada adesso sta benissimo. È ancora viva. Era con noi al centro di salute mentale nel rione di Barcola. Abitava in una casa, ci aiutava, sì, una donna magnifica. Ma era un sistema, quella volta. Mamma mia, che roba. La mattina bisognava mettere le ammalate tutte nude e lavarle. Io alle colleghe domandavo, ma perché non le si lava da sole? Non le sa. Ma come non le so? Erano espropriate. Erano espropriate completamente di tutto. Denudate della identità, delle origini e anche nel proprio vestito, no? Nella propria intimità, nel lavarsi, nel vestirsi, nel pettinarsi. Niente era permesso a loro, neanche del lavarsi da sole. In fila nei bagni davanti ai lavandini e noi con la spuglietta le sfregavamo. E nei reparti maschili invece li lavavano con le scope e con la pompa. Sa come si fa con le automobili? Altri contatti no. Non avevamo contatti con le malate. Non potevamo neanche parlare con loro. Tutte le 12 ore che stavano qua dentro non dovevamo parlare con loro, perciò lei era diventata anche mute. Non si comunicava più con queste donne, pareva che le fossi mute. Mi, i primi tempi, ero convinta che le fossi mute. D'estate invece stavamo all'aperto, no? 6 ore, 8 ore là fuori, sotto il glicine, che era un glicine bellissimo, col cemento che buttava sul caldo, però. Non si faceva niente. E questo era il paradosso. Non le doveva parlare. Le doveva stare in assoluto silenzio. E dopo, quando si arriva a Basaglia, abbiamo visto invece che non erano mute. E quando abbiamo cominciato a parlare con loro, abbiamo visto che non erano tutte uguali, come noi pensavamo, ma che erano una diversa dall'altra. Ognuna aveva le sue storie, no? Le sue origini, le sue idee, le sue passioni. Erano vive, non erano mute. Qua, nel padiglion M, c'era poca violenza, perché le donne che arrivavano erano già corpi vuoti, svuotate completamente di tutto. Erano corpi vuoti, inesistenti. E allora qua, padiglion M, reparto tranquille, c'era meno violenza. Corpi vuoti voleva dire che avevano già fatto tutto il percorso dal primo reparto accettazione al reparto M. All'accettazione era ancora figo. Ah, restavamo là, quelli di bella presenza, di buona famiglia e bisognava avere buoni modi, che era la sede del primario, sa, potevano venire in visita i parenti. Poi dall'accettazione venivano smistate o al reparto osservazione, che era il Q, o al reparto agitate, la O. Al reparto N delle sudice incontinenti c'erano le vecchie, le malate, che morivano là una per notte. E poi c'era questo reparto qua, quello delle tranquille, l'M. E alla fine del percorso, dopo tutta la trafila, quando morivano, no, andavano qua sopra alla cappella, qua con l'obitorio e la sala settoria a fianco per gli studenti di medicina, perché sezionavano i cadaveri per studiarli. Corpi vuoti, per forza, con tutta la violenza subita dagli elettroshock in avanti, cosa poteva restare di quelle poverette? Io ho fatto tutta la trafila, io ho visto tutto quello che succedeva qua dentro, tutto. Tutto. Facevano l'elettroshock, se la facevano i traumi clinici, facevano il curaro. Con gli alcolisti il trattamento era questo. Mi ricordo di una donna alcolizzata e cosa facevano? Gli davano una pastiglia che è un antagonista dell'alcol e dopo gli facevano bere di colpo tutto. È in un slook. A forza, no? Una scodella di vino bianco. E là questa donna fa brum, proprio la collassava e in un attimo diventava cianotica, shock anafilattico, tachicardia. Beh. Mi sembrava disumano. Ma per la nostra cultura che piace il vino, vero? C'erano tante donne che venivano dentro per alcol qua. Io avevo avuto un'osteria un anno prima di andare a lavorare in psichiatrico e tutti i giorni vedevo questi alcolizzati. E proprio per la nostra cultura mi domandavo, ma perché torturano così questa povera gente? Era punitivo al massimo, non era terapeutico. Nel mio piccolo, da ignorante che ero sul tema, non capivo il perché. Anche questa donna qua adesso sta benissimo, è ancora viva, perché è una donna magnifica. Un altro sistema, gli era le febbri, le febbrine le chiamavano, cioè ti iniettavano dentro dei virus malarici o qualcosa del genere che ti provocavano questi eccessi di febbre altissima, oppure ti mandavano in coma col curaro. Ti portavano proprio al coma, al limite, e dopo ti facevano riprendere. Per forza che te si calmavi, diventavi innocuo. Eri quasi morto. Soprattutto l'elettroshock veniva usato in modo molto punitivo. Tu mandavi a fanculo la caposala e ti cucavi l'elettroshock come castigo. Una volta, non sapeva che lo vedevo, sa, un infermiere della vecchia generazione passando in corridoio così gratuitamente ha sferrato un calcio a un malato, come si dà, sai, un calcio così a un cartoccio, a una lattina per strada, così mica perché ha detto o fatto qualcosa, no, così. Passava e tirava un piadone, ma forte. Ovvio che non lo faceva davanti ai dottori. E neanche davanti a me non sapeva che lo vedevo. So che c'erano delle lobotomizzate, che erano state lobotomizzate. Ma poche informazioni avevo su questo. Sulla lobotomia non sapevo niente. Dopo l'arrivo de Basaglia, abbiamo avuto questa informazione, ma prima non si sapeva. Ma c'erano i lobotomizzati. C'erano. E se qualcuno era più agitato e si ribellava, veniva sbattuto subito nel camerin. Nudo. Nel camerin d'isolamento tu non avevi un cazzo. No, c'erano dei terzi di materasso e delle lenzuola non lacerabili. E c'era solo una lucina di servizio, una plafoniera su in alto, su nel soffitto, e una doppia porta. La prima porta che aveva solo uno spioncino di vetro e la seconda porta serviva per chiudere, no? Si apriva solo per controllare com'era la persona rinchiusa lì dentro. E lì stavano, sin quando si calmavano. Fin quando lei era distrutte. Rovinate. Una volta mi è successo che stavo pulendo i vetri in accettazione donne, che anche là bisognava pulire, sa, lustro su lustro, lustrissimo, dicevo. Stavo pulendo i vetri su una scala e loro camminavano sotto avanti e indietro, in accettazione, era ancora con la loro identità, con la loro rabbia, no? Insomma, ero su questa scala che pulivo e una ragazza mi faceva i dispetti. Tom mi tirava per le gambe e una volta ho detto: no, sta a tirarsi, è pericoloso, eh? No, no, non tirar che casco. Sta ferma, lasciami lavorare in pace, lasciami lavorare in pace. Una, due volte, la terza volta arriva alla caposala e la sbatti in camerin. E mi sono sentita colpevole. Non colpevole, no, ma responsabile. Perché potevo star zitta. Ma non si poteva star zitta perché rischiava di farmi cadere giù dalla scala. Lobotomizzate. Gli era la brunetta e la rosetta, che ancora qua che la gira. La Anna, che loro erano sempre nel camerin. Erano nude in camerin, con un terzo del materasso fisse proprio e una coperta. In camerin finiva spesso la rosetta che veniva dal padiglione rally. È il rally. Occhio. Mi dimenticavo del rally, che era per i bambini. Nel rally erano rinchiusi i figli degli internati o delle internate, figli di nessuno, caratteriali o con un'infanzia derelitta. Al rally mi sono stata solo un giorno e una notte. No, mi sono detta no. Spostemi subito. Non posso. Non arrivo. Via. Con la scusa che non si facessero mal, gli erano i muletti picci ligati al letto con le catene. Spaventoso. Il rally è stato il primo padiglione che Basaglia gasmantelà. Insomma, chi veniva ricoverato in manicomio anche per una crisi momentanea o di poco conto, se non aveva parenti attenti, restava internato per sempre. Ma c'erano quelli che mettevano dentro i parenti, i fioi, le mogli, messi apposta per liberarsi della persona. E se i parenti non li venivano a prendere entro 30 giorni, incominciava per loro tutto il percorso psichiatrico, no? Dall'accettazione alla M. E il manicomio era il punto per liberarsi della persona che disturbava, sia in famiglia che in società. Il marito per prendere i soldi della moglie, sicuramente la chiudeva dentro, perché dentro la moglie perdeva tutti i diritti. O perché si faceva l'amante. Talmente le esasperava che diventavano altro che matte. Questo l'ho scoperto dopo. Quando anni dopo, nel centro di salute mentale di Barcola, abbiamo fatto autocoscienza tra donne, no? E queste donne raccontavano cose che faceva i loro mariti. Anche il tuo ti faceva così. Anche il mio mi faceva così, uguale. E te pestava anche a te. Ah, ma allora l'ho fatto apposta per rinchiudermi in manicomio. Cioè, veniva fuori. Perché erano diventate matte? E finite rinchiuse in manicomio, perché le facevano diventare matte, altro che, le facevano diventare matte, era molto interessante. Erano solo donne depresse, no? Per mancanza d'affetto. La depressione era proprio il tipico all'interno delle frustrazioni in famiglia, e per la depressione l'elettroshock era ottimo. E alle donne depresse che facevano l'elettroshock? Che mi sembrava una terapia normale. Questo mi vergogno oggi di dirlo. Mi dicevano fa questo, e io facevo. Ordine su ordine. Ma tutto questo è durato finché non è arrivato Basaglia. Basaglia, quando era studente durante l'occupazione nazista, gli era stato arrestato perché stampava volantini, no? E lui aveva la spussa della galera, no? Dopo la laurea, la prima volta che è entrato in manicomio, il Ganasà quella stessa spussa. Lo chiamavano il filosofo. El voleva saper. El voleva conoscere tutto. E quando l'hanno estromesso dalla carriera accademica, lui non ha pensato né uno né due, bon sabe cosa che vi dico, andè fanculo che mi vado a disfare i manicomi. Così l'ha detto. Con l'equipe di Basaglia, Rotelli, Dell'Acqua, e là abbiamo cominciato a fare la rivoluzione. Praticamente. Cambiava praticamente tutto. Prima tutti mi dicevano chiudi, chiudi, chiudi, chiudi. E dopo invece apri, apri, apri, apri. Con Basaglia, prima roba, hanno rivisto la pianta organica e ha territorializzato l'OPP, cioè il manicomio. Lo hanno diviso in 5 accettazioni, perché la città era divisa in 5 settori, ogni rione un reparto. L'ospedale non era più diviso secondo la categoria della malattia, ma semplicemente a seconda del rione di provenienza del malato. E da 48 ore siamo passati a 36 ore la settimana, che è stato il massimo della conquista dei lavoratori all'epoca. Via le divise dei infermieri, via le divise dei malati, e corsi, corsi, corsi su corsi, ogni anno che era un corso. E così è cominciato il cambiamento professionale per noi, personale e professionale. Con Basaglia tutto si è stato messo in discussione. Soprattutto a livello personale. E il cambiamento è stato rapidissimo. La promiscuità è stata la prima roba, che però al momento mi ha lasciata perplessa. Prima sono venuti a far le notti gli infermieri maschi, no? E a far le notti con noi. Che io mi dicevo, oh Madonna Santa, cosa dirà mio marito che faccio le notti con un uomo? Beh, questa era la mentalità dell'epoca. E là io ho avuto paura. Avevo paura di questo cambiamento. E allora sai che cosa ho fatto? Mi sono messa in malattia. E pur di non andare a lavorare con gli uomini, sono rimasta a casa in malattia un mese. Fino all'ultimo, finché il dottor Rotelli non mi ha detto basta Mariuccia, adesso basta. E sì, e dopo sono stata costretta a tornare a lavorare con gli uomini. Quelle infermiere che erano qua con me, qua prima, poche hanno recepito il suo messaggio. Due caposala e basta. Le altre ga cambia lavoro, andava via o sono andate in pensione. Io invece no. Io ho partecipato all'evoluzione, alla riabilitazione delle persone. Io ho visto che Basaglia e i suoi dottori trattavano i malati come se fossero delle persone normali. L'ho visto. Le altre infermiere avevano soprattutto paura perché il medico si è messo in discussione. Dite, sono infermiera, mi sono medico. Ma cosa vuol dire? Siamo uguali, no? Tutti facciamo tutto. Ma il ruolo del medico, in fin dei conti, con la cravatta, vestito in un certo modo, il potere del medico le rassicurava. Con questa negazione improvvisa del ruolo del medico, le vecchie infermiere non erano d'accordo. Io per prima sono rimasta anche un po' così, perché anche il togliersi la divisa, no, vestirsi tutti diversi, sia per noi che per i ricoverati, insomma. E poi i dottori che mi dicevano, non sta a pulir, e chi pulissi? Tanto invece pulivo ancora, perché continuavo a pulire. E allora lui, il dottore, faceva al posto mio, lavava per terra, girava i stramassi, scovava, lustrava i vetri. Nella pratica quotidiana i dottori erano sempre presenti. E poi abbiamo cominciato a mangiare con loro, con i malati, che non sapevano neanche mangiare, poveretti. Da anni mangiavano col cucchiaio, il coltello non sapevano più usarlo, no? Seduti a tavola a mangiare tutti insieme. Là cominciava la grande riabilitazione, lavarsi, pettinarsi, andar fuori a comprarsi i vestiti nei negozi più lussuosi, sa, nei ristoranti più lussuosi, provocatoriamente, che comunque i matti erano brutti, sono ancora brutti. Hanno impresso la violenza della brutalità delle istituzioni subita sulla propria pelle, sul viso, sui denti, gli occhi, i cavei. Ma noi andavamo nei migliori ristoranti, con questo gruppetto di 5-6 persone. E i primi tempi la gente ci guardava così, cucchiaio così, sta con gli occhi fuori dalla testa, perché andavamo a mangiare fino in Friuli, in gita. E la prima volta che mi ha impressionato è stato quando il dottore mi ha portato un ragazzo. Signora, mi dava ancora del lei. Signora, questo è suo. Oh mio Dio, e mi cosa faccio? Io ero ancora con la mia famiglia, con i miei schemi, col mio ruolo. Cosa faccio? Faccia quel che vuole. Ma il ragazzo era giovane, cercava un lavoro. Ecco, là ho cominciato a capire, là mi è scattata dentro qualcosa e ho cominciato là ad assumermi una responsabilità sulla vita dell'altro. Sì? E allora, prima roba, sono andata nella famiglia che aveva espulso questo ragazzo, perché Basaglia diceva, bisogna lavorare dove nasce il conflitto e non espropriarlo dal luogo. Là dove nasce il conflitto bisogna affrontare le difficoltà, dove che ha vissuto questa persona. E questo abbiamo fatto. E là si è andata. Andavamo al mattino a fare la colazione alla gelateria da Pippolo, a Barcola, con questi 6-7 che dormivano nel centro di salute mentale, prima ancora dell'entrata in vigore della legge 180. E un giorno al bar Pippolo, sul giornale, c'è la notizia che chiudono i manicomi. E il barman che ci serviva ogni mattina ci dice preoccupato. E adesso dove metterai i matti pericolosi? Ma se due anni, Mona, che ti servi la colazione ai matti pericolosi, no? I matti pericolosi sono questi qua. E quello che era bello qua dentro era che ognuno faceva quel che più gli piaceva di fare. Mamma mia. Uno gli piaceva pitturare, va ben pittura. Ti piace lavorare la terra? Va bene, lo portavano in campagna e passava 8 ore in campagna con un gruppo. Ti piace andare in barca? Hanno messo a posto un veliero e andavano in giro per il golfo. Una volta c'era il mare in burrasca, forza 7, la bora che tirava forte, hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco che sono andati a recuperarli a grado. Però io andavo in barca. La prima volta che mi ricordo da sola, sono andata fuori con una utente, oggi abbastanza grassa, no? Ma quella volta era ancora una bellissima ragazza, bei capelli folti, neri, dagli occhioni blu, con uno sguardo che inquietante, ma e solo quando parlava tu capivi che aveva delle difficoltà. Siamo andati fuori e ho detto, andiamo a Barcola, andiamo al mar. Entusiaste, siamo andati al mare. E come vede questo mare, attacca. Ah, il mare! Il mare! Ah, che bello il mare! E si fionda de corsa per andare in acqua. Si spoglia per buttarsi in acqua e aveva indosso, e l'ago sbaglia, un paio di quei mutandoni boxer de tela grezza con tutti i timbri, ospedale psichiatrico de provinciale, e sui mutandoni sa OPP, OPP, OPP dappertutto. Ma come? Porto al bagno una e non mi preoccupo se ha il costume. E lei ha cominciato a giocare con quest'acqua, no? Come fa le paperette. Ah, che bello! Felice era. E come io ho alzato lo sguardo, ho visto che eravamo noi al centro e che c'era tutto un cerchio di gente dentro l'acqua, distanti parecchi metri. La gente si allontanava, prendevano i bambini in braccio e li portavano lontano, si vedeva che avevano paura. E lei là era felice, erano 3 anni che non andava al mare e urlava di gioia. Ah, il mare, mare, mare, cici, e cantava questa persona adulta che faceva queste robe de fioi. E dopo un poco certi bambini però sono stati contagiati dalla sua gioia e andavano vicino a giocare insieme. Ma all'inizio nei centri esterni di Barcola di via Gambini. Là avevamo i ricoverati che dormivano anche là, de notte. Facevamo le notti noi, là, prima che fosse approvata la legge Basaglia. E era un esperimento anche questo, che non si faceva solo sui casi più semplici, ma con i più difficili, sa? Si partiva dai casi apparentemente più disperati. C'era un ragazzo, una persona che era il matto più pericoloso che poteva esserci in manicomio, è il primo che avevano preso fuori dal manicomio perché, per venire a dormire al centro di Barcola, perché lui era di quella zona. E lui, questo matto, gli piaceva fare il cuoco e andava in giro per il centro di Barcola con un coltellazzo lungo così. Sai, tranquillo, lui. Ma prima in manicomio gli era sempre in camerin. Era una persona speciale, uno spirito libero proprio, era squisito, sa? Era sempre nel camerin perché non accettava la violenza, si ribellava. E come lo bastonavano, bastonava anche lui. È stato l'unico che nel camerin ha fatto un salto sulla plafoniera e l'ha rotta e si è tagliato la gola. Cioè, non è morto, ma perché era un pivot, un ex pivot de pallacanestro. Aveva messo sotto il materasso, piegato in tre, aveva fatto un salto ed era riuscito a spaccare la plafoniera. Bel ragazzo, era alto. Era una persona splendida. Io poi l'ho conosciuto bene al centro. La prima roba che ha fatto è stato di prendersi una barchetta e lui, è il matto più pericoloso che poteva esserci, con questa barchetta e l'andava a pescare. E che piaceva tanto i sardoni. Ecco, siamo riusciti a ribaltare la domanda. Tutti che entravano al centro di Barcola domandavano: è il dottor? È il dottor? Dove sei il dottor? La palazzina che aveva due piani e il dottore era sotto che puliva la moquette in ginocchioni e diceva: su, lavati su, su sei il dottor. Allora venivano su e ci trovavano noi infermieri, ci coinvolgevamo, coinvolgevamo loro, e al punto che noi infermiere dopo non volevamo più i dottori. Noi non volevamo più i dottori. Eh sì, ci siamo gestite noi queste 22 persone. Negli anni Ottanta, pensa, c'era ancora un infermiere con la spranga de ferro de nascosto, perché non aveva fatto il lavoro riabilitativo che era doveroso farlo. E aveva una spranga de ferro perché? E aveva ancora paura. E noi quattro donne, sole, con questi 22 brutti e cattivi, che siamo diventati subito amici. Abbiamo cominciato a parlare con loro, a rispondere ai loro bisogni, alle loro richieste, no? Perché il rispetto è una roba fondamentale. Ognuno si assumeva la propria responsabilità del paziente, dell'utente, e a un certo punto scattava una complicità tra operatore e utente, un coinvolgimento tale come se fossimo sempre stati insieme, un rispetto reciproco, una fiducia reciproca. Ora, per fare un esempio banale, c'era una che non faceva il bagno da 3 anni, non si poteva stare vicino perché la spuzzava, insomma. E allora che cosa ho fatto? La se vergogna di spogliarsi, signora? Allora mi spoglio anche a me, eh? Siamo insieme. E così abbiamo fatto il bagno tutte e due insieme. E ci siamo pure divertite, sa? E il rispetto, torno a dire, è la prima roba che impedissi la violenza. È il rispetto. È la prima cosa che impedisce la violenza. Perché quando tu rispetti l'altro, l'altro non ti violenterà mai. Lui non ti mancherà mai del rispetto. No? Almeno mi la penso così. Comunque questo è stato molto interessante. Siamo riusciti a ribaltare la domanda. Imparare a leggere la domanda, leggere dietro la domanda, perché là c'è un malato che parla male, che si esprime male, che dice nel suo delirio, nella sua allucinazione, ti dice tutta una roba che vuol dirne un'altra. E non si tratta, vien che te son delirante, che ti dago 20 gocce, 3 pillole che te passa. No, Se tratta del suo dolore, prima di tutto, aver pagato la sua sofferenza. Se tratta di riuscire a capire cosa c'è dietro la vera domanda che vuole fare. È stata un'esperienza che me ga segnà profondamente. È stato un cambiamento proprio veramente radicale, perché in questa esperienza c'è il riconoscersi nell'altro. C'è la sofferenza. E se lui soffre, però soffro anche a me? O posso soffrire come lui domani? Me può succedere anche a me? E allora, nell'identificarsi con l'altro, tu cosa fai? Te lo fa star meglio possibile. Lo fai stare meglio possibile. Perché non vuoi soffrire, non vuoi soffrire come quell'altro. Perciò abbassiamo il livello della miseria, alziamo la qualità della vita per star meglio ti e anche a me. La libertà della vita dell'altro estende la mia all'infinito. Erano questi i principi. Questi i principi che ho acquisito, fatti miei, come filosofia di vita. È come strumento di conoscenza, questi principi della sofferenza, sofferenza dell'anima, che non è impalpabile. Lo psichiatra può anche aprirgli la testa al malato, ma non ci troverà niente dentro da curare in quella testa. C'è da curare l'anima e tutto quello che la circonda intorno. E il rischio qual è? Che ti identifichi troppo, ti identifichi al punto di star male, stare proprio male, e questo non va bene. Sai, il matto è uno che per mestiere te metti in risonanza, cioè ti chiedi chi tu sei, cosa fai, che senso tu hai. E allora? Come posso io mettermi di fronte all'esistenza di un altro senza pormi di fronte alla mia? Non posso misurarmi con gli altri se non parto da me. Io posso mettermi alla pari, ma sapendo che lui è più fragile, ha meno potere di me, però ha gli stessi diritti che ho io. Cioè, lavorare con una persona sofferente, però non che quell'altra persona ti mangi perché tu non hai strumenti di difesa. E così si è cominciato il cambiamento, il mio cambiamento. Fino ad allora per me la famiglia era tutto. Per me la famiglia era tutto. Casa, lavoro, basta. Mi realizzavo completamente là. Con Basaglia ho cominciato a capire che io non sono solo un ruolo, no? Madre, moglie, figlia, sorella, eccetera. Ma sono anche un soggetto sociale e politico. E là ho cominciato a mettere in discussione tutto. Tutto. Portavo tutte le contraddizioni del lavoro là dentro la famiglia. E mio marito mi stava dietro per un poco. Dopo però abbiamo cominciato a parlare due lingue completamente diverse. E lui si allontanava sempre di più e mi allontanavo sempre di più. E perciò, basta, perciò è finita. Prima avevo la famiglia, che era speciale. E dopo ho avuto il movimento basagliano. E quando eravamo dentro ancora nel manicomio, dicevamo andemo nel territorio e pensavamo di aver risolto. Poi, quando siamo andati nel territorio, nelle famiglie, nelle scuole, nelle fabbriche, ci siamo resi conto che funzionavano come i manicomi. Che il manicomio è un modo di pensare. Oggi non è facile, no? Oggi. Perché la cultura in generale si è cambiata, no? Non c'è più il 68, non c'è più il 70, no, siamo di fronte a cambiamenti epocali, storici. Oggi c'è più libertà, più dialogo, sì, però la violenza si trasforma nell'essere ignorato. L'essere non considerato è una forma di violenza. Ascoltare veramente fino in fondo un matto è un lavoro impegnativo, che non puoi dirgli sì, no, no, no, no, non sta rompicoglioni. Il manicomio di allora era proprio l'abbandono, nel senso che la gente li chiudeva dentro e non esistevano più. Oggi esiste un altro tipo di abbandono. Oggi, io non so come si muove oggi un infermiere, sì, a volte dico il dottore, non si assume la responsabilità che ci assumevamo noi. Mi per certe cose mi arrabbio. I dottori degli anni 70 erano per una rottura contro il potere scientifico delle istituzioni. Oggi, sai, si formano nella luce della scienza, ma non tendono tanto a condividere con l'altro l'umana condizione. Basaglia diceva, mi non so esattamente cosa che è questa follia. Mi so solo che ligar uno che sta mal non è terapeutico. Fra quei che se cuca la schizofrenia, un terzo se la tien, un terzo convivi e un terzo guarissi perfettamente. Perché? Boh! Se così. Il psichiatra non può far altro che restituire il matto all'umana sofferenza. Se io oggi non so come si muovono. Ti faccio un esempio. Qualche anno fa dovevo cambiare casa e mi avevano dato un appartamento in Borgo San Sergio. Quando vado a star là, neanche far la posta, chi abita sopra di me? Un matto, naturalmente, no? Ma era proprio un disturbo continuo, giorno e notte, sghignazzi, colpi, urla, spaccare, roba incredibile, no? Un baccano continuo. E tutti che mi dicevano, ma cambia? Cosa? Domanda di cambiare casa. Come? Mi scamperò di fronte al matto? Mi chiamerò il centro dei servizi, casomai? E così che ho fatto. Sono andata al centro di salute mentale più vicino e lì gli operatori non avevano un vero rapporto, no, con questa persona, perché lui voleva solo il dottore e allora non entravano in casa perché avevano paura di lui, questi operatori. L'unico rapporto che avevano in estremo erano i carabinieri, buttavano giù la porta. Ma che rapporto te può l'avere con una persona del rispetto verso l'altro se te sei presenti coi carabinieri, no? Questo glielo avevo anche detto. Ma no, strano, sei un tipo tranquillo, la mattina quando viene al centro prendiamo il caffè insieme, sì? Ma ti te sa cosa che fa la notte da solo a casa? Credimi, quel che te dico mi, non credevano che nella solitudine della sua casa prendeva il sopravvento la sofferenza. Insistevo, niente. E allora un giorno succede che questo matto mi ha allagato il bagno e vado su da lui con timore, sa, perché mi faceva paura anche a me, forte, grosso, grande, che faceva flessioni per terra di notte che sentivi, era inquietante, non brutto, no, un bel ragazzo sì, ma inquietante, con gli occhi, mi faceva paura. E allora vado su da lui, suono il campanello, sa, lui apre e dico, buonasera, la scusi, sa, lasciami l'idraulico perché gespandi il bagno. Go un spandimento sotto sul soffitto e buongiorno, arrivederci, grazie. Vado. Ben, dopo due giorni si è andato al centro di salute mentale da solo, me voglio ricoverar perché a casa c'è un spandimento de gas. E su questo spandimento che era di acqua, non di gas, vero? Lui si vede che ci ha lavorato, no? Ci ha pensato sopra finché si è ricoverato da solo. E si è ricoverato da solo, ma per paura del gas, non dell'acqua. E da lì hanno capito che pericoloso che era, no? E là finalmente hanno fatto un gruppo e gli hanno parlato. Ma come puoi lasciare uno così delirante, così aggressivo anche che era? con lo sguardo, coi gesti, no? Come che camminava, tutto de nero vestito, punk era. Come puoi lasciarlo solo nel suo delirio, abbandonato a se stesso, giorno e notte, da solo, nessun che vada a vederlo? Dai. Adesso mi dicono che sta bene. Dicono che ha trovato il suo equilibrio, che vive in un gruppo appartamento e che è felice. Dopo l'istituzione della legge Basaglia, dopo è subentrato un certo riflusso. Come è finito il movimento basaglian, io quella volta sono stata mal. Mi sono sentita io abbandonata. Quando è finito tutto, come sono finiti i movimenti, quando è finita la politica, perché poi noi donne abbiamo fatto anche un collettivo per la politica della donna, noi della psichiatria, sa? E in più ci univamo alle femministe per fare le lotte sull'aborto, sul divorzio. Oggi, forse emotivamente, un poco sì, mi manca. Mi mancano le lotte, no? Di allora. Mi manca il gruppo. E poi quando parlo di queste robe mi sento... E mi commuovo. Sì. Divento triste. Perché appunto ricordo tutto il cambiamento fatto. Però mi ricordo più con nostalgia, la nostalgia famosa, quella del poeta, quella che te sa troppo ben che non può tornare. Mi mancano i gruppi di lavoro, mi manca tutto il resto. Anche perché la psichiatria per me è stata la mia famiglia. Perché eravamo tutti uguali. Perché eravamo sempre insieme. Basta. Bon. Dove siamo rimasti? Io non ero una femminista, io ero una donna che rivendicava il diritto di donna. E questo è stato anche interessante per una città chiusa come Trieste, questa apertura. Era una grande roba allora. E finito tutto questo mi sono sentita così sola che sono andata dallo psicanalista, in analisi mia personale. Ma là, portando sa, la mia pratica su quel lettino che andavo là e portavo tutti i miei rospi che avevo dentro, là ho approfondito, là ho studiato, ho letto Freud, altri psicanalisti, 4 anni, e là ho acquisito altri strumenti di teoria, mi sono arricchita sulla parte teorica che non conoscevo, come conoscenza psichiatrica. E le cose che ho acquisito in quegli anni... sono un valore, ma un valore che ho dentro di me. E su questo non si discute. Oggi io sono sicura. Io so che tutto ciò a cui ho partecipato, che ho fatto, che ero sempre io responsabile, in prima persona, delle cose che facevo. In piena coscienza. Ero io protagonista. La delega. Non esisteva delega. Cosa facciamo domani? E si faceva domani. Tutti i giorni c'era una riunione finale, tutti insieme, qualsiasi tema, qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà, qualsiasi idea, qualsiasi progetto che uno aveva, lo portava lì, in riunione, e là si realizzavano i progetti, tutti insieme. Ma stiamo attenti a non fare autocelebrazioni, eh? Che bel, siamo tutti fighi, tutti bei, no, perché se no si rischia di far monumenti al contrario di quel che voleva Basaglia. Però devo dire che nonostante tutto quel che abbiamo fatto, ci sono ancora delle zone d'Italia dove... tornati come indietro ero. E legano ancora lì i vecchi al letto come ai tempi del manicomio. In tutti questi anni Nessuna delle persone intelligenti che l'hanno attraversata questa esperienza psichiatrica si è illusa che... Non è il muro! Non è il muro fisico! È il muro che hai dentro la testa! I muri sono dentro la testa. Il manicomio non è buttar giù il muro. Il manicomio sono gli schemi che abbiamo nella nostra testa. Il manicomio non è buttar giù il muro. Il manicomio sono gli schemi che abbiamo nella nostra testa che sono da liberarcene e da buttarli giù. Ma quello è più difficile. Fuori la gente ha tanti schemi, tante regole, tanti superio. Fuori non si parla come si parla dentro il manicomio, sa? Il manicomio è un posto speciale. È il posto più bello che c'è. Il manicomio è un posto grandioso. Dove io abitavo e ancora oggi abito perché sono in pensione, ma vengo qua. Vengo qua all'M, in quel che era il padiglione M, a far la volontaria. Oggi che sono in pensione mi faccio la volontaria in questo padiglione qua, lo stesso padiglione dove 40 anni fa ecco la magia, no, di lavorare come volontaria in un clima completamente diverso. E il mio è un lavoro meraviglioso. È bello? Ah, è bello essere soddisfatti del lavoro che ti fai. Ti salvi la vita. Il lavoro è la parte della vita più grande di qualsiasi altra parte. E purtroppo la gente non sempre è soddisfatta, non sempre si realizza nel lavoro. E io in mezzo ai matti mi sento a mio agio. Loro non hanno schemi, io neanche non ho schemi, solo che io ho più libertà, la relativa, non è che ho tanto più di loro, anche perché sono sola e sono come loro. Le ore che adesso io faccio qui in sartoria come volontaria sono le ore più belle che faccio. Il resto non mi interessa. La casa per me è come un rifugio, uno spazio di intimità, sì, ma di chiusura. Oggi non sono più in prima linea, sono tranquilla, calma, ma la sera quando torno a casa tiro le somme della mia giornata come volontaria ed è ricchissima. Ma così ricca che mi viene di scrivere quel che ho fatto e quel che non ho fatto per affrontare poi il giorno dopo, perché io ogni sera mi piace. A casa mia mi piace riflettere e penso alla mia giornata, la mia giornata che è stata ricchissima, e penso a tutte le persone che ho incontrato, tutte le persone che sono passate qua dentro in manicomio. E io non ho grosse pretese oggi. E poi in quanto volontario non ho neanche una grande responsabilità, ho solo la responsabilità della persona diretta con cui parlo, dell'utente o degli utenti che mi affidano. E la sera, a casa mia, con calma, mi metto davanti alla TV, che guardo e non guardo, e penso E mi dico, domani vado là e cambio quel che ho sbagliato. Cambio questo che non mi piace. Quel faccio meglio.